Avventurieri, il sole batte impietoso sopra le vostre teste. I vostri dromedari iniziano a barcollare. Le narici si dilatano, i movimenti si fanno lenti e pesanti. È un chiaro segno. Stanno subendo un colpo di calore. Per aiutarli dovete agire rapidamente e nel modo giusto. Pensate, qual è l'organo più esteso del loro corpo? È lì che dovete intervenire per dissipare il calore.